Radio 24 Reportage. Bruxelles, l'ora delle decisioni, di Sergio Nava. Buongiorno da Bruxelles, sono le 14.30, venerdì 28 giugno, siamo qui per raccontarvi il Consiglio europeo, da molti definito come decisivo per le sorti dell'euro e dell'eurozona. Lo faremo in questo reportage, lo faremo raccontandovi dal vivo questo Consiglio. Siamo in questo momento fuori dal Palazzo Justus Lipsius, dove arrivano i capi di Stato e di Governo, i 27 capi di Stato e di Governo, la folla di giornalisti li attende e attende ovviamente le loro dichiarazioni. È talmente folta questa folla, pensate che non riusciamo neppure a vedere in questo momento chi sta arrivando, ma potete ascoltare le domande, le richieste di dichiarazioni. Alcuni leader europei si fermano, lo ha fatto circa mezz'ora fa François Hollande, altri invece tirano dritti. In questo speciale, in questo reportage, vi racconteremo il Consiglio europeo visto da dentro e vi racconteremo anche come l'Europa ha vissuto questi due anni di crisi, due anni, è il caso di dirlo, vissuti pericolosamente. Siamo qui in sala stampa con Lorenzo Consoli, giornalista di TM News e anche nel board, ma già presidente dell'Association de Presse Internationale, API, che rappresenta i corrispondenti della stampa estera a Bruxelles e in Europa. Lorenzo, raccontiamo innanzitutto questa sala stampa, questa comunità anche di corrispondenti. Quanti giornalisti attendono mediamente un vertice e da dove arrivano anche? Arrivano da tutta Europa, ma anche da tutto il mondo, perché come d'altra parte nella sala stampa permanente dell'Unione Europea, delle istituzioni europee, ci sono anche giornalisti americani, canadesi, asiatici, molti, anzi in crescita. Quanti sono? Allora, al vertice, a questo qui in particolare sono sicuramente più di 1600. Nella sala stampa di Bruxelles i giornalisti sono poco più di un migliaio. C'è stata una piccola diminuzione, anzi a un certo punto una anche preoccupante diminuzione all'inizio della crisi finanziaria, ma poi proprio a causa della crisi finanziaria che ha attirato qui molti giornalisti per descrivere dal centro dell'Europa, i rimedi che ci cercava di prendere alla crisi, sono riaumentati, per cui adesso c'è una situazione direi di record storico, perché si è raggiunto e superato il livello che era stato raggiunto nel 2005, subito dopo il grande allargamento. L'hai detto tu stesso, un grande numero, 1600 giornalisti accreditati per questo summit, perché questo viene percepito più importante rispetto agli altri, anche dalla comunità di giornalisti qui. Per me che ho cominciato a seguire gli affari europei come giornalista al summit di Maastricht di 20 anni e mezzo fa, è sicuramente il vertice europeo più importante dopo Maastricht. E la ragione è molto semplice, abbiamo avuto da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria, 4 anni fa, abbiamo avuto circa una trentina di summit, la maggior parte dei quali straordinari, e a parte i primi che sembravano riuscire a calmare i mercati, a dare delle soluzioni convincenti, poi si è visto che in realtà si arrivava sempre troppo tardi e che quello che si decideva era troppo poco. Secondo una immagine che sorprendentemente mi è stata data dallo stesso portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari, era come correre da un incendio all'altro con un secchio di acqua. 19.04 di venerdì 28 giugno, ci troviamo all'interno della sala stampa del Consiglio europeo, edificio Justus Lipsius. Le trattative tra i 27 leader sono in pieno corso. E quello che avviene qui è una scena che si ripete ad ogni vertice. Centinaia di giornalisti da tutta Europa raccontano come procedono i lavori del vertice. Si formano capannelli all'interno del lungo corridoio che porta poi all'interno dell'edificio e qualche sherpa arriva anche per raccontare dall'interno i retroscena di questo Consiglio europeo. E noi ora andiamo a parlare di Germania con un collega giornalista che i tedeschi li conosce bene. Siamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, ma a lungo corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte. Con Beda Romano andiamo a analizzare un po' l'atteggiamento della Germania verso l'Europa. Insomma, si è discusso molto di questo atteggiamento così intransigente di Angela Merkel verso una maggiore mutualizzazione del debito, verso anche la proposta dell'Italia di uno scudo anti-spread. Si è vista in questi mesi una Germania, almeno a detta degli osservatori italiani, molto rigida e intransigente. È una cosa che anche tu condividi, ma soprattutto come spiegare l'atteggiamento tedesco in questi mesi di fronte all'Europa? Rispondo alla prima domanda, sì e no. Certo che la Germania è intransigente, lo è per carattere e lo è per formazione culturale. D'altro canto i tedeschi possono essere molto fieri del loro successo politico, del loro successo economico, dei loro successi sociali, anche grazie alla loro intransigenza. Ho l'impressione che dietro al successo tedesco ci sia anche questa capacità di rispettare le regole che ci si è dati. C'è anche una valenza morale dietro al modo in cui i tedeschi si danno le regole e le applicano. Quindi sì, per certi versi è intransigente, no, per altri versi non è stata intransigente, perché per prepararmi a questa intervista sono andato a verificare quanti soldi la Germania ha dato finora ai paesi deboli dell'Unione Monetaria. Ha dato 24,2 miliardi di euro alla Grecia, 210 miliardi al Fondo di Stabilità Finanziario IFSF e dovrebbe dare 190 miliardi a quest'altro fondo di stabilità che si chiama ISM e che dovrebbe entrare in vigore tra poco. Quindi posso accettare la critica sulla rigidità tedesca, non posso accettare la critica sulla mancanza di generosità tedesca. La posizione di Angela Merkel è la posizione dell'establishment tedesco, cioè all'interno dell'elite, all'interno comunque della classe dirigente, del sistema paese, Germania, c'è questo atteggiamento di dire attenzione ai passi che facciamo in Europa? Credo di sì, credo che la signora Merkel ha le proprie particolarità personali, ha un livello di opportunismo forse più elevato di altri leader politici, guarda i sondaggi con particolare attenzione, ma è rappresentativa comunque di una visione tedesca delle cose. C'è stata una frase pronunciata dal presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, alcune settimane fa in un'intervista a Le Monde, e ha detto, parlando al giornalista, all'intervistatore: lei darebbe la propria carta di credito a qualcuno se poi non può controllare le spese? Non è una domanda totalmente irragionevole. La Germania sta dicendo: se vogliamo mutualizzare i debiti, se vogliamo andare verso un'Europa più federale, dobbiamo tutti cedere sovranità e dobbiamo tutti permettere a delle istituzioni sovranazionali, indipendenti, di poter in un modo o nell'altro influenzare e incidere sulle politiche nazionali. Altrimenti il rischio da parte tedesca è di firmare un assegno in bianco. 21 e 15 minuti, verso quest'ora di solito i giornalisti accreditati al Consiglio europeo aspettano la conferenza stampa finale, ma in questo momento c'è un altro evento che catalizza l'attenzione. Siamo al bar della sala stampa e tutti stanno guardando Italia-Germania, 1-0 per l'Italia, risultato ovviamente parziale. Attenzione, Germania in attacco, tiro sopra la traversa, quindi Italia ancora in vantaggio e potete sentire i commenti. Insomma, oggi si parla di sport qui a Bruxelles. Siamo qui con Antonio Spoglio Salimbeni, corrispondente di Radiocor da Bruxelles. Abbiamo appena raccontato l'atmosfera al bar dove si sta vivendo la semifinale di Italia-Germania degli europei, ma torniamo a parlare di vertice. Due anni vissuti pericolosamente, potremmo dire, dall'Europa. Due anni con oltre 20 vertici. Quanto sono stati o meno risolutivi? Con una battuta che ai tempi era anche felice, l'ex ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti aveva detto: qui in Europa il vizio di fondo è che si procede per vertici, per via di costruzione di vertici. Come dire, ce n'è tanti e alla fine rischiano di essere abbastanza inconcludenti. Per la verità questo il ministro Tremonti, l'allora ministro Tremonti, lo diceva ed eravamo quasi all'inizio della crisi. In realtà non avremmo mai pensato che avremmo dovuto partecipare o quantomeno reso contare i risultati di 20-25 vertici. Naturalmente la politica si fa con le parole e le aspettative dei mercati possono essere cambiate anche con le parole. Oltre a un certo punto vanno cambiate con i fatti. Una certa inconcludenza c'è, ma non è l'inconcludenza in quanto tale la caratteristica dei vertici, è il fatto che ci sono interessi fortissimi, potentissimi, finanziari, politici, che impediscono che si facciano le scelte giuste al momento giusto. È stato questo il vizio tedesco della gestione della crisi. Perché secondo te l'Europa è andata avanti a rattoppi anziché cercare fin da subito una soluzione più globale? La questione di fondo è che A parole tutti i leader e tutti i governi europei sono pro Europa. In realtà poi la vita di tutti i giorni, cioè la frammentazione della politica europea nelle tante facce, nei tanti aspetti che la politica europea comporta, ed è praticamente il 70%, se pensiamo che il 70% della legislazione nazionale è di derivazione europea, ci rendiamo conto del peso delle scelte che vengono fatte a Bruxelles, sia dalla Commissione europea, sia dal Consiglio europeo, cioè dai governi, sia dal Parlamento europeo. È evidente che il peso degli interessi nazionali fa da premio al vantaggio alla fine su proposte e soluzioni di carattere europeo. Il problema è che a fronte di una crisi che produce un effetto contagio a catena spesso inaspettato, a questo punto la risposta nazionale, la risposta a singhiozzo non funziona. È vero che vanno anticipate le aspettative, ma per anticipare le aspettative ci vuole una visione politica coerente. Ora è 18:30 di venerdì 29 giugno, il vertice si è chiuso ormai da circa 5 ore, gli ultimi leader hanno lasciato il palazzo Justus Lipsius, tra loro anche il premier italiano Mario Monti, la stessa sala stampa si sta ormai gradualmente svuotando, gli ultimi giornalisti si fermano per completare i servizi e i resoconti. L'Europa alla fine ha convinto, è riuscita a varare uno scudo antispread ed è riuscita anche a fare in modo che le banche possano essere direttamente ricapitalizzate dal fondo salva stati. I mercati e le borse hanno festeggiato con rialzi veramente notevoli. Da lunedì si ricomincia, da lunedì riparte la sfida dell'integrazione europea. Ed è con questo messaggio, con questo augurio anche all'Europa e all'euro, che noi vi lasciamo da Bruxelles. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.